signorina. The special one. Signorina, volevo fare una canzone d'amore per raccontare come muore il dolore. Avrei cercato di tenerla con me, poi puoi farti un regalo dal cuore. Volevo fare una canzone speciale, una di quelle da cantare a Natale. Ma tu non senti e vedi altro che lui, non ti facevo tanto superficiale. Le sue parole senza capo né coda, le banconote e la sua macchina nuova, quegli occhi spenti di chi pensa da porco che non sei altro oltre al tuo corpo. Non sa vedere quando piangi o sorridi, quando lo guardi lui pensa che lo sfidi. Volevo fare una canzone diversa, ma adesso vedo bene quanto sei persa. Ora, ora cosa farai se lui non c'è mai, ai ai ai ai? Quando la pelle grida cosa farai? Ora cosa dirai? Cosa dirai? Se non sa vedere oltre a tutte quelle grazie che hai. Tu che ti vesti da regina per farlo contento, con quel profumo che, quando lo sento, attorno a me appare l'arcobaleno. Sei una dea né di più né di meno. Quando ti aggiusti quei capelli con le tue mani di fata, suonano tutti gli strumenti e svolta bene la giornata. Se per lui tu fossi solo un po' di quello che sei per me, si accorgerebbe di te. Io non lo so davvero cosa ho fatto per arrivare a starci tanto sotto. Adesso guardami se stai ascoltando, ho una domanda e te la faccio cantando. A cosa stavi pensando? Se mi guardi soltanto potrai vedere quello che lui non ha. Dai vieni siediti accanto che ti sto regalando un attimo eterno di felicità. Ora cosa farai se lui non c'è mai, ai ai ai ai? Quando la pelle grida cosa farai? Ora cosa dirai? Cosa dirai? Se non sa vedere oltre a tutte quelle grazie che hai. Come? Che io ti guardo ma non mi vedi? Tu dammi la mano, andiamo sexy lady. Tu che nel sole porti lo splendore. Tu che a Cupido hai insegnato l'amore. Lascialo, io lo vedo che t'annoia. Lascialo, lui è come Babilonia. Guardalo, cosa ti dovrebbe dare? Prendi la mia anima e ti insegnerò a volare. Sei una gemma rara che io voglio, sei la più bella canzone. Io ti voglio, hai gli occhi verdi che splendono sul mondo. Dai, molla tutto e sali a bordo e poi quello che sarà lo scopriremo assieme. Dove andremo non lo so, ma ci andremo assieme. Sopra questa terra ormai nulla ci tiene. E non guardare lui perché tanto non viene. Ora cosa farai se lui non c'è mai, ai ai ai ai? Quando la pelle grida cosa farai? Ora cosa dirai? Cosa dirai? Se non sa vedere oltre a tutte quelle grazie che hai. Ora cosa farai? Cosa farai? Se non sa vedere oltre tutte quelle grazie che hai. Ora cosa dirai? Cosa dirai? Se lui non c'è mai, quando la pelle grida, che cosa farai?